Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Mi chiamo Viola e vengo da Pistoia, reparto Aldebaran, e benvenuti alla terza puntata di Radio Picchetto. Ciao, io invece sono Matilda, vengo dal reparto Elfi di Reggio Emilia 3. Adesso, per farvi risvegliare con una bella canzone, vi faremo ascoltare Melody dei Lost Frequencies. Allora, ieri abbiamo fatto Arti e Mestieri, una cosa gazzissima. E abbiamo scelto delle attività da fare a inizio anno e ieri abbiamo fatto appunto questi laboratori. Io, per esempio, ho fatto Psicolor, che era principalmente uno studio delle forme e del colore, però in realtà era molto meglio di come suona adesso. E abbiamo fatto un sacco di tecniche, tipo il bagnato sul bagnato e tipo il colore messo sulla schiuma. E niente, è stato molto bello. Io invece ieri ho potuto apprendere l'arte del legno costruendo un orologio che non è venuto molto bene, ma questi sono dettagli, e dove bisognava, diciamo, in pratica era già tutto fatto, bisognava scartavetrare il pezzo di legno e costruire l'orologio. Poi inoltre ho fatto un corso di teatro dove l'improvvisazione faceva da regina, e con un ragazzo che era un regista, e diciamo che è stato molto divertente. Adesso vorrei leggervi un pezzo del libro di Hugo Cabret, e una lettura, insomma. La storia che sto per svelarvi ha inizio nel 1931, sotto i tetti di Parigi. Qui incontrerete un ragazzo di nome Hugo Cabret, che un giorno, tanto tempo fa, scoprì un misterioso disegno che cambiò la sua vita per sempre. Ma prima che voltiate pagina, voglio che immaginiate voi stessi, seduti nel buio, come all'inizio di un film. Sullo schermo sorgerà il sole fra pochi istanti e la macchina da presa inquadrerà una stazione nel cuore della città. In un atrio pieno di gente vedrete finalmente un ragazzo che si muove rapidamente. Seguitelo, perché quello è Hugo Cabret. La sua mente è piena di segreti e sta aspettando che la sua storia abbia inizio. Mentre se ne andava, però, continuava a voltarsi per guardare il meccanismo rotto. Per qualche misterioso motivo sapeva di non poterlo abbandonare, dopo tutto il lavoro che il padre gli aveva dedicato. L'automa gli apparteneva. Ugo fece un respiro profondo, tornò indietro, spostò le macerie carbonizzate. L'automa era pesante, ridotto a pezzi, ma lui lo raccolse e, non avendo altro posto dove andare, tornò alla temuta stazione ferroviaria. Il viaggio di ritorno fu difficile, con il sacco sulle spalle e i resti dell'automa che gli pesavano sulle braccia e sulla schiena. Non aveva nemmeno idea di ciò che avrebbe fatto con l'automa, una volta tornato nella propria stanza. Era notte fonda, e Ugo riuscì a infilare l'automa in uno dei condotti di ventilazione senza che nessuno lo vedesse. Gli ci vollero diversi viaggi per portare tutti i pezzi fino alla propria stanza. Quando ebbe finito, aveva le mani tutte graffiate e le braccia e la schiena doloranti. Dispose i pezzi sul pavimento e si lavò le mani nella bacinella che teneva accanto al letto e che riempiva d'acqua dal lavandino sgocciolante della minuscola cucina. Restò a fissare quei pezzi di metallo deformi e fu felice che lo zio non fosse ancora tornato. «Aggiustalo!» Ugo avrebbe potuto giurare di aver sentito una voce che gli sussurrava all'orecchio. E fece un salto. Cercò con lo sguardo lo zio, ma la stanza era vuota. Non sapeva se erano stati i suoi pensieri o un fantasma, ma l'aveva sentita distintamente. «Aggiustalo!» Ugo guardò l'automa. Non pensava di essere in grado di farlo. Era in condizioni decisamente peggiori di prima. Però aveva il taccuino del padre. Forse avrebbe potuto usare quei disegni come guida per ricostruire le parti mancanti. Ugo sentiva di doverci provare, almeno se l'avesse aggiustato, non sarebbe stato più completamente solo. Avete appena ascoltato Sabbia di Ultimo. Ieri abbiamo fatto un'altra cosa nel pomeriggio, che sono le Scautiadi, e abbiamo fatto questa specie di Olimpiadi, in cui però potevi scegliere cosa fare. C'erano per esempio arrampicata, corsa, sollevamento e trasporti, quadrupedia, equilibrio. Non eri obbligato a fare un'attività nella quale non eri a tuo agio. erano comunque attività da fare di pattuglia. E noi per esempio abbiamo fatto equilibrio, nel quale dovevi camminare prima su un tronco di legno abbastanza lungo che era sospeso da due corde, e poi dovevi saltare attraverso delle ruote e delle gomme. Poi per esempio c'era arrampicata, che il primo percorso era facilissimo, poi a un certo punto c'era una roba assurda dove dovevi sollevarti per una lunghezza pari alla tua altezza. E quindi diciamo che è stato abbastanza difficile. Invece io e la mia pattuglia abbiamo fatto parecchi, diciamo, giochi e sport. Alcuni erano singoli, altri erano di pattuglia. E una cosa che ci è piaciuta molto comunque sono stati i salti. C'erano tre tipi diversi di salti: in lungo, in alto e la corsa ad ostacoli. Abbiamo fatto la corsa ad ostacoli, è stato un macello perché alla fine bisognava fare il salto con la corda e la corda non era la solita corda, ma era la corda da campo, quindi pesante, ed è stato molto difficile, cioè, e quindi è stato anche divertente perché una mia compagna si è mezza ammazzata, è quasi caduta. E salto in alto invece era molto professionale, diciamo, dato che la stanghetta per segnare l'altezza era un bastone legato con dello scotch senza i numeri, quindi ogni 10 cm c'era un pezzettino di scotch che segnava appunto l'altezza. E insomma, queste scoutiedi sono state molto divertenti perché ognuno poteva fare quello che voleva, non era obbligato a fare ciò che non voleva fare. E ad esempio noi non abbiamo fatto alcune attività perché le ritenevamo troppo pesanti e oltretutto erano le 2 del pomeriggio, quindi c'era un sole che spaccava le pietre, e alla fine c'è stato anche il tempo di riposarsi, quindi è stato molto bello. Allora, questo campo, come abbiamo detto ieri, è a tema la Biblioteca di Alessandria, e infatti tratta di questo cuore dei libri che è stato rubato, e quindi tutte le storie stanno sparendo. E a ogni attività che facciamo, quindi tipo arti e mestieri, scoutiadi, riceviamo un QR code che ci fa leggere un brano, come quello che vi abbiamo fatto sentire prima. Solo che quello delle scoutiadi non ve lo possiamo leggere perché è un fumetto che tratta appunto di Asterix e Obelix. Ogni attività ha un proprio tema, ad esempio questo era Asterix e Obelix, e arti e mestieri era Ugo Cabré, e ci saranno molte altre attività con vari, diciamo, temi diversi. Adesso vorremmo farvi ascoltare Pesto di Calcutta. Questa puntata di Radio Picchetto ormai si è conclusa. Un saluto dalla regia, da Matilda e Viola. E un saluto anche da Radio Picchetto, ci vediamo alla prossima puntata. E ora vi lasciamo con My Life is Going On. Picchetto! Picchetto! Picchetto! Picchetto! Picchetto!